Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. La ruspa inizia a buttare giù le baracche del campo romano di Tor di Quinto. Tra 7 giorni non rimarrà nulla e i circa 100 nomadi che vivono qui regolarmente saranno trasferiti in un altro campo autorizzato e controllato. 8 persone accompagnate in questura per identificazione e poi il sequestro di armi bianche e un'autovettura rubata confiscata. Questi i primissimi risultati dell'imponente controllo della questura di Milano nel campo nomadi abusivo di Viamonte Bisbino. Non è un albergo a 5 stelle, ma secondo l'Associazione 21 Luglio, organizzazione no profit per la difesa dell'infanzia, la struttura di via Salaria 971, nella quale vivono 350 rom ospitati dal Comune di Roma, che li ha sgomberati forzatamente da insediamenti abusivi, è invece un luogo dove vengono gravemente violati i diritti umani ed in particolare i diritti dei minori. Non sono soprattutto garantiti gli standard minimi. Quello dei rom, solite chiamarli nomadi, solite chiamarli zingari, sono termini che sarebbe meglio non usare. Abbiamo fatto recentemente una trasmissione su quali sono i termini giusti per definire alcune categorie in emergenza. Forse chiamarli rom è la maniera più esatta, ma poi non è nemmeno l'unica maniera per chiamare quelle popolazioni che entrano in filigrana attraverso i luoghi che noi frequentiamo ogni giorno. Li riconosciamo perché all'apparenza li vediamo subito segnati appunto da alcuni caratteri molto ben definiti, suonano nelle metropolitane, questuano per le strade, a volte inventano anche dei format molto fantasiosi che sono gli stessi in tutta Italia, dicono le stesse frasi, suonano le stesse canzoni, hanno la stessa maniera per creare per richiamare la loro attenzione. Se ne parla normalmente di Rom in periodo preelettorale perché sono una forza molto importante dal punto di vista demagogico. Qualcuno tuona ci libereremo di loro, puliremo le nostre strade, puliremo le nostre periferie, metteremo sicurezza ai cittadini che si sentono minacciati. D'altresì altri prendono le difese, fanno battaglie di principio. Beh, qualcosa è accaduto di storico. Stranamente se ne è parlato molto poco o se ne è parlato soltanto ai margini, per cui in questo momento, se vogliamo considerare il grande problema di quelli che premono rispetto a chi si sente italiano al 100%, è spostato oggi sullo Ius Soli, su un altro tipo di problematica. Al centro c'è Balotelli e vediamo tutti su questo altro tipo di problema. Ma noi oggi invece vogliamo parlare dei Rom. Vogliamo parlare perché c'è stata proprio il 2 maggio, quindi proprio pochissimi giorni fa, una sentenza della Corte di Cassazione molto importante, che definisce, appunto sancisce, che in realtà non c'è un'emergenza legata a questo tipo di popolazione. Beh, su questo oggi vorremmo sentire il vostro parere, la vostra testimonianza. Ormai non considerate più centrale il problema rom, perlomeno lo considerate centrale perché avete magari un insediamento, un campo abusivo o un campo attrezzato vicino a casa vostra e ne sentite l'impatto fisico, o semplicemente ormai fanno parte del quotidiano, li vedete quando entrano in metropolitana, suonano l'organetto, girano con il bicchierino, nessuno ci mette mai nemmeno l'ombra di un centesimo, eppure continuano imperterriti ogni giorno a svolgere quello che sembra il loro principale fonte di occupazione e anche di reddito. Ne parliamo questa mattina con un ospite che su questa materia si è professionalmente applicato da diversi anni, che è Giovanni Augello. Augello, buongiorno. Buongiorno a tutti. Augello è giornalista della forse unica agenzia che esiste in Italia che si occupi di terzo settore, che è redattore sociale. Innanzitutto, Giovanni, qual è questa novità? Perché la novità è reale, è concreta. Nessuno potrà in campagna elettorale dire emergenza nomadi o emergenza rom. Perché? Perché la Corte Cassazione ha detto che in realtà non c'è nessuna emergenza. Spiegalo, perché è un po' difficile da spiegare. Sì, la questione è particolare, nel senso che la Cassazione alla fine ha rigettato un ricorso del governo Monti che chiedeva di rimettere in discussione, diciamo così, la sentenza del Consiglio di Stato, sentenza che di fatto metteva fuori gioco l'emergenza Rom in Italia. Il ricorso del governo Monti però che all'inizio sembrava un po' strano, perché il ministro Riccardi si è sempre prodigato per dire che... Comunità di Sant'Egidio, erano certo, i primi. Certo, in effetti il ricorso del governo era più di natura tecnica, più per salvaguardare, diciamo, la capacità di un governo di dichiarare uno stato di emergenza. Il governo sostanzialmente riteneva che il Consiglio di Stato non fosse l'organo, come dire, non avesse le caratteristiche per esprimersi sull'emergenza, e di questo è stato appunto un ricorso tecnico. La Cassazione ha rigettato questo ricorso, e di fatto l'ultima, appunto, la sentenza che rimane in vigore è quella che mette appunto fuori gioco, dichiara l'illegittimità dell'emergenza. L'emergenza che è nata poi col governo Berlusconi. Ecco, chi è che aveva stabilito che fosse un'emergenza? Beh, è nato, diciamo, con come dire, il filone e con la questione securitaria. Che anno era, più o meno? 2009, mi pare. Il governo Berlusconi, sì, un po' prima pure. Sì, finì il 31 maggio 2009, doveva finire questo stato d'emergenza, però invece è praticamente continuato. Continuato perché, diciamo, il campo di intervento era molto vasto, e non si, dopo i primi interventi ci si è resi conto che serviva più impegno, anche perché la situazione più drammatica, diciamo, è quella romana per quanto riguarda i campi, e nei primi anni non si è riusciti ad intervenire come dire, a cambiare di molto la situazione. La sentenza del Consiglio di Stato di fatto appunto mette fuori gioco l'emergenza, mette fuori gioco tutta una serie di meccanismi, quindi il commissario straordinario, quindi la possibilità del commissario straordinario nelle città di Roma, Milano e Napoli di intervenire con una certa libertà e di dare modo alle amministrazioni di avere anche fondi a disposizione per creare strutture che sono state appunto quelle dei campi attrezzati creati nella capitale. Senti, posso farti una domanda? Adesso, al di là, poi spiegheremo ancora più nello specifico il punto di vista normativo. Mi sembra aver capito che a un certo punto si cominciò a dire, nell'idea generale di garantire la sicurezza ai cittadini, stabiliamo uno stato d'emergenza nei confronti dei Rom. Lo stato d'emergenza permetteva di fare alcune azioni, tipo fare degli sgomberi di campi abusivi, che in effetti obiettivamente hanno degli impatti molto fastidiosi e sono anche luoghi dove non è più possibile permettere il vivere civile secondo i canoni attuali. A un certo punto, poi, questo andando avanti, ha permesso la creazione dei cosiddetti campi attrezzati, che dovevano essere una soluzione lievemente più civile rispetto al campo spontaneo, che però alla fine sono diventati quasi dei piccoli campi di prigionia a tutti gli effetti, anche molto costosi, che però non hanno comunque risolto quello che i cittadini sentono come un problema, anche perché il primo messaggio che mi è arrivato via SMS dice nessuna soluzione, fuori dalle palle. Ecco, questo è il risultato. Sì, può anche essere giusto, ma per andare dove? Per farne cosa? Perché la soluzione deve esserci. Io sono 30-35 anni che faccio questo mestiere, di media ci sono vari flussi, ogni 2-3 anni se ne parla, e più o meno dico le stesse cose che dico questa mattina, non cambia molto la percezione. Quindi è possibile capire, e questo me lo devi dire con grande sincerità professionale, quanto questo realmente rappresenti un problema e quanto questo venga puntualmente tirato fuori o come strumento di demagogia o come strumento di forte dimostrazione di avere il pugno forte, di occuparsi, di fare pulizia. Ecco, hanno avuto questo grande ruolo di ammortizzatori di tensione sociale, i Rom, che a qualcuno faccia comodo dire sto dalla parte loro e a qualcuno faccia molto comodo dire ve li tolgo dalle palle, come dice il nostro ascoltatore, così vi dimostro che puliamo le città. Certo, mettendo, diciamo, mano ai vari lanci che ho scritto per Redattore Sociale, vedevo la riflessione. Tu sei il rommologo di Redattore Sociale. Il rommologo. Come c'è il vaticanista, c'è il rommologo. Sì, diciamo che è appena entrato, appena ho iniziato a lavorare al Redattore Sociale, mi sono subito occupato di questo tema insieme ad altri. E la prima cosa che ho notato è che mi veniva in mente una frase di Churchill, quella sui Balcani, che producono più storia di quanto ne riescano a digerire. E lo stesso vale per i Rom. C'è tutta una serie di questioni irrisolte, ma è diciamo una storia di discriminazione. È vero, se noi pensiamo che a Roma i Rom che vivono nei campi attrezzati sono poco più di 3.000. Ci rendiamo conto che il problema di fatto è risolvibile in qualche modo, cioè non sono numeri stratosferici, non sono numeri a cui non si può rispondere in maniera, diciamo, organica e progettuale. Certo, poi i progetti dipendono e variano e oscillano con le amministrazioni. C'è una cosa però che voglio, un paio di cose che voglio sottolineare, e la prima è che gli sgomberi poi non iniziano con il piano Nomadi, non iniziano con l'emergenza. Lo sgombero è stato uno strumento utilizzato da diverse amministrazioni, uno strumento bipartisan per, come dire, per spostare il problema, per dare l'impressione di un intervento, quando poi alla fine un intervento reale non c'è stato. Basti pensare appunto alle somme impiegate per gli sgomberi, affiancate alle somme impiegate per l'integrazione, magari per il lavoro. Ci sono dei dati... Ecco, fammi una cifra, poi sentiamo qualche ascoltatore. Certo. C'è l'associazione 21 Luglio che in questi ultimi anni ha fatto delle stime abbastanza precise e abbastanza pesanti. L'anno scorso, verso metà dell'anno scorso, stimava, diciamo, come costo complessivo di tutti gli sgomberi una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Che non è poco. Fermati un attimo che poi avremo il presidente di questa associazione, entreremo più nello specifico. Poi diamo subito la voce a qualche ascoltatore, così mi dà l'idea della percezione generale rispetto al problema. Anna. Sì, buongiorno. Ecco, io volevo dire questo. Non ho una particolare preclusione, nel senso che nella classe dei miei figli ci sono dei bambini di origine rom. I genitori vivono peraltro in una situazione, diciamo, migliore, nel senso che sono in case popolari. In che città parla lei? Di Venezia, città? Provincia di Venezia. Ecco, dignitosissime. Però devo segnalare come ci sia una difficoltà grossissima da un punto di vista culturale delle famiglie, nel senso che questi bambini che nascono qua, crescono qua, parlano perfettamente. Poi c'è stato anche il caso di uno che è stato allontanato dalla famiglia per un periodo perché c'è una sostanziale incuria dei genitori verso questi figli, non li accompagnavano mai, li vestivano in maniera inadeguata, non partecipavano a nessuna delle attività, neanche alla consegna delle pagelle. E non c'è mai una partecipazione, anche se i bambini poi in realtà vengono accompagnati da altri genitori alle feste di compleanno, quindi c'è un coinvolgimento della comunità. I genitori sono totalmente assenti, questa distanza, io devo dire la verità, dispiace perché proprio non c'è questa... Anna, io adesso non conosco la situazione nello specifico, però a me capita di vedere tutte le mattine bambini, anche molto piccoli, invece che andare a scuola, andare in giro con il bicchierino dentro le metropolitane, bambini di 4-5 anni, fino a 6, 7, 8, 10 anni, quindi già è una situazione, secondo me, ottimistica il fatto di qualche bambino vada a scuola rispetto a quelli che vedo. Elisabetta. Ah, pronto? Sì. Elisabetta. Pronto? Sì, pronto, sono sì, pronto. Buongiorno, buongiorno. Grazie per questa possibilità di dire la mia, sebbene una voce nel coro, suppongo. Beh, la dica, non faccia tante promesse, però. Sì. Allora, io abito in una zona di Roma, sotto Castelnuovo di Porto, dove c'è un agglomerato spaventoso di queste persone, non solo, ci sono anche i centri di raccolta cara che raccolgono appunto con i beni della comunità europea tutti quelli che sono i respinti che arrivano dalle coste del Nord Africa, eccetera. Sì, sì. Quindi qui c'è proprio un agglomerato di tutto e di più. Il problema, ora sentivo quel signore di cui mi spiace, mi sfugge il nome, stava appunto parlando delle comunità. Giovanni Augello, un giornalista, sì. Mi spiace, allora, il problema è questo, non è soltanto il fatto che non ci sia un'integrazione, ma rimane sempre il discorso che i cittadini non hanno il sentore di avere da parte dello Stato, delle autorità, una certa forma di controllo, perché qui non si vive tranquilli. Noi troviamo le macchine con i segni sopra, i cancelli con quei famosi simboli che significa qui ci puoi venire, qui non ci devi entrare. Cioè, voglio dire, viviamo circondati da questa realtà. Vediamo Elisabetta, se riesco a riassumere. Ho capito più o meno la sua telefonata, mi dica se ho ragione o no. Dice, è facile parlare del problema da un punto di vista puramente ideologico, Parlatene quando ce li avete sotto casa, dei luoghi in cui c'è una forte concentrazione di persone che vivono comunque delle situazioni di emergenza. In realtà l'emergenza la sentiamo da vicino, la respiriamo. Noi vorremmo delle risposte più dirette, perché ne va del nostro quotidiano. Ho letto bene quello che lei diceva? Più o meno, perché le risposte quando ci sono solo due macchine di carabinieri in un posto come Castelnuovo di Porto, voglio vedere come fanno qui con tutta la delinquenza che gira, due macchine con quattro persone. Sì, però dividiamo, oggi parliamo di Rom, la delinquenza in generale è un altro problema che possiamo anche affrontare, l'immigrazione è un altro problema, specifichiamo, se no facciamo un grande calderone e non arriviamo mai. Rispetto ai Rom ha espresso comunque il suo punto di vista. Igor. Buongiorno, mi sentite? Sì. Allora, io chiamo dalla provincia di Catania, volevo esternare il mio pensiero su una nuova comunità che si è fermata ora a Catania, che staziona al porto, che arriva fino al mio paese, che è Ragalna, alle Penicille. Sapete, questo qua fino a ieri passava l'Arrotino. Non la Rotino, quello col messaggio uguale in tutta Italia. Sì. Ma il fatto è che riparo, cucina a gas, coltelli, forbici da cucito, tutte le storiche cose, sì. Sì, ma io l'ho fermato, lui dice che ha bisogno di lavorare. Il fatto è che stava su un veicolo dal valore di 35.000 euro. Sì, ma quello della Rotino, guardi, ci ha fatto fare una sorta di franchising, non si capisce bene chi ci sia dietro, ma in tutta Italia girano con la stessa cassetta da anni, con lo stesso messaggio, con la stessa attrezzatura. Consigliabile non farli salire a casa, posso dire questo, almeno a distanza di anni, dopo averne parlato molto. In realtà coltelli da affilare, cucina gas da riparare, non le ha quasi più nessuno, quindi fa parte chiaramente di tutte le aree a margine. Sentiamo un attimo, avevo già annunciato il presidente dell'associazione 21 luglio, che è l'associazione che svolge attività di ricerca sulle condizioni degli insediamenti Rom in Italia, in particolare con una particolare attenzione ai diritti dei bambini, visto che è stato tirato fuori anche questo problema. Carlo Stasolla, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ecco, velocemente rispetto alle prime domande prevedibili dei nostri ascoltatori. Mettere la questione Rom nell'alveo dell'emergenza è sicuramente un approccio sbagliato che non ha mai funzionato, ce lo dice addirittura anche la sentenza della Cassazione, e invece ogni volta viene fatto questo. Il problema è che in Italia è diventata negli anni, viene chiamata in Europa l'Italia il paese dei campi, cioè l'Italia è il paese che ha chiamato i Rom nomadi e in quanto tali li ha collocati in questi mega ghetti monoetnici. E cosa avviene nel resto d'Europa? In Europa avvengono cose molto diverse, innanzitutto parliamo di numeri, in Spagna ci sono 800.000 Rom, in Italia 170.000, quindi siamo a numeri estremamente estremamente più bassi. In Spagna per esempio non esistono campi nomadi, perché si è deciso che i Rom non sono nomadi, quindi non devono vivere culturalmente all'aria aperta e incapaci quindi di vivere nelle case. Bisogna iniziare a considerare... Quindi lei non considera, scusi se la interrompo, le trasferisco le vulgate più... ma loro vogliono vivere così, se anche gli dai le case, loro gli piace vivere in quelle condizioni. Questo non è assolutamente vero, lo dimostra appunto il fatto che solo in Italia si investe nella costruzione dei cosiddetti villaggi attrezzati e si stabilisce... Che costano parecchio, tra l'altro. Costano moltissimo, solamente nella città di Roma un Rom che vive in un villaggio attrezzato costa 450 euro a persona al mese, quindi circa 2.000-2.500 euro a famiglia. Con una cifra enorme. Con la metà dei soldi si potrebbero fare benissimi percorsi di inclusione sociale. Bisogna capire a chi non conviene far uscire i Rom dai campi. Avere i Rom nei campi significa mettere la questione nell'ambito della sicurezza, e questo qua certamente ha un ritorno elettorale molto importante per gli amministratori e per chi fa campagna elettorale. Allora, fermiamoci solo un secondo, diamo l'informazione della borsa. Mi sembra che abbiamo toccato il punto, l'avevo solo sfiorato in apertura. In campagna elettorale fa comodo che comunque ci sia un grumo oscuro su cui trattare, sia per fingere di essere affratellati e fare battaglie sociali, sia per fare il pugno duro e dice io vi libero anche da questa sorta di zozzeria. Melog, la realtà condivisa. Veniamo a sapere che il campo nome di Casilino sono proprietari di appartamenti e conti in banca, uguale qui vediamo che abbiamo un ufficio postale dove ci sta questi nomadi che arrivano addirittura con i sacchi dell'immondizia per depositare questi soldi. dice dove li prendono, vero, li prenderanno dall'elemosina, ma non credo che siano tutto frutto dell'elemosina, perché se devono campare quel poco che prendono penso che lo devono consumare. Ma prima di tutto facendo entrare meno rom in Italia e anche a livello europeo, cercando insomma tra nazioni di darci una mano. A quanto pare noi siamo una delle nazioni che abbiamo di più le porte ai rom, quindi ci troviamo con un sovrannumero. Certamente quest'area ha già un campo nom da poco distante da qua. 800240024, abbiamo raccolto qualche voce presa dai vari telegiornali, da varie inchieste, varie servizi fatte appunto sul problema emergenza nomadi, anche se poi non è il termine esatto, stanno dicendoci le persone che sono ospiti da noi in studio che soltanto in Italia ancora chiamiamo nomadi i rom, che poi sono sinti, sono varie altre suddivisioni che forse sono racchiuse tutte nel termine nomadi. Giovanni Augello, ricordo, giornalista di Redattore Sociale, sull'onominia, visto che il nome è importante, sulla denominazione, com'è esatto chiamarli per non sentirsi ancora provinciali rispetto al resto d'Europa? Beh, diciamo che un'indicazione che si può seguire è quella che è stata data dalla strategia nazionale proposta dal governo, inviata alla Commissione europea e proposta dal ministro Riccardi, che è la strategia di inclusione di rom, sinti e camminanti. Perché rom, sinti e camminanti? Perché sostanzialmente racchiudono la maggior parte di queste comunità. Sbagliato definirli nomadi. Proprio perché molti di loro sono, mi fa ridere dirlo, ma anche stanziali, cioè vivono nello stesso posto, nella stessa città. In percentuale? Più o meno, rispetto ogni quanti quelli che noi consideriamo rom o più comunemente chiamati nomadi, in realtà non sono nomadi. Uno su tre, uno su quattro? Beh, basta considerare su questo il numero italiano. Secondo le stime realizzate da una commissione di inchiesta del Senato, in Italia ci sono circa al massimo 170.000 rom, sinti e camminanti. Di questi, le persone che vivono in disagio abitativo e quindi che magari potrebbero anche, come dire, decidere di spostarsi, sono 35-40.000. E la cosa più importante, che poi non emerge, è che quando si parla di questo problema si tende sempre a sottolineare quello che è evidente, magari la persona, il rom che chiede l'elemosina o quello che suona la fisarmonica nella metropolitana. La cosa che non si, di cui non si parla è che 4 rom su 5 vivono in casa. Questo è il dato, lo sapere. 4 vivono su 5 in casa, vivono in casa. Vivono in casa, vivono nascosti, tra virgolette. Molti nascosti proprio perché hanno il timore di rivelare la propria identità, proprio per non essere discriminati. E dalle telefonate che abbiamo ricevuto è chiaro che quello che emerge appunto è lo stereotipo del... Allora, fermo un attimo. Daniel, buongiorno. Daniel? Daniel, mi ascolta? È caduto. Daniel era un rumeno in Italia da 23 anni, voleva dire qualcosa, forse potrebbe essere interessante. Allora riprendiamo, mi ero interrotto per la pausa della borsa con Carlo Stasolla, che è presidente dell'associazione 21 luglio, che è l'associazione che fa ricerca e appunto ha dati da darci sulle condizioni degli insediamenti rom in Italia. Prendiamo dal punto che avevamo lasciato prima. Le tante telefonate e messaggi che mi arrivano tendono a ribadire alcune cose che tutti sappiamo: i rom milionari, i conti in banca controllati che determinano le attività lucrose quanto illecite di molti rom. Ecco, sull'attività di sostentamento, come vivono? Perché se su 5, 4 vivono in delle normalissime abitazioni, in qualche maniera pagheranno l'affitto, pagheranno le bollette, si manterranno. Su questo ci sono dati? Beh sì, come ha detto Augello, ci sono 4 quinti di rom che vivono in casa e che sono anche reticenti a dire di essere rom, proprio perché la loro identità è fortemente stigmatizzata. Fondamentali sono comunque le politiche locali e nazionali. Io voglio dare solamente l'esempio e il racconto in 15 secondi di una ragazza, Anina Ciuciu, una ragazza che sta studiando alla Sorbonna gli ultimi anni della scuola, una ragazza rom rumena, la quale quando è venuta in Italia in realtà ha vissuto nei campi e ha chiesto l'elemosina. Bosnia, andata in Francia dove ha avuto altre possibilità, adesso si trova a essere pronta a fare il giudice presso lo Stato francese. Quindi quanto è importante la politica e ciò e le occasioni che vengono offerte. Torno a dire, la politica dei campi, che è la politica scelta dal nostro paese, dalle nostre amministrazioni locali, è una politica che crea poi la cultura del ghetto, crea la marginalità. La delinquenza che si vede, la criminalità che oggettivamente è presente nei campi, ma è presente non perché i Rom sono criminali, è presente perché si è creato il ghetto e chi vive nel ghetto pratica attività criminali che sono tipiche delle culture marginali e allontanate dal centro della città in tutti quanti i secoli e in tutte quante le aree. Ma avrebbero un'alternativa, sarebbero disponibili secondo lei a seguire una strada alternativa rispetto a questo organizzatissimo, devo dire, perché ormai ha proprio l'idea, veramente sembra avere una catena a livello nazionale, guardi, attività di vaga, non so adesso come chiamarla, di raccolta questo, a piccoli spettacoli da strada, cose del genere. Guardi, i Rom, lo dimostra appunto, le realtà europee all'estero vivono all'interno di abitazioni convenzionali, solamente in Italia si è creato questo sistema, quindi i Rom desiderano una casa. Il problema che io pongo, e che pongo per la seconda volta in questa trasmissione, è chi oggettivamente oggi ha interesse a chiudere i campi, questa macchina che produce discriminazione e segregazione, che è un'azienda che in realtà ha un grosso fatturato, ha tante persone che ci lavorano intorno e ha grossi interessi economici. Quindi ci sono grossi interessi economici da parte. Chi gestisce questi interessi economici? Perché questa è anche un'altra Vox Populi. Girano tanti soldi, lei l'ha appena detto, un Rom costa tantissimo allo Stato, e non fanno niente, c'è chi ci mangia sopra, ci fa demagogia. Esattamente, è possibile organizzare un po' l'area che manovra o che lavora attorno al fenomeno Rom e lucra anche su questo fenomeno? Beh sì, però tutto quanto dipende poi dalle politiche locali, dalle politiche comunali. Se noi pensiamo alla città di Roma che investe ogni anno 20 milioni di euro per mantenere questo sistema, è chiaro che è una scelta politica ben chiara. Noi ma certo, 20 milioni di euro sono tanti, su un'amministrazione comunale con anche dei problemi, diciamo, di bilancio. Se pensiamo che abbiamo a che fare con 3.000 persone, noi abbiamo stimato che con la metà dei soldi è possibile in 3 anni chiudere tutti i campi presenti a Roma. Quindi se noi vogliamo chiudere i campi, con la metà dei soldi che ogni anno il Comune spende per mantenere i campi possono essere chiusi. Se mi ripete la cifra, il Comune di Roma spende 20 milioni di euro negli ultimi 3 anni. Il Comune di Roma ha speso 20 milioni di euro ogni anno per mantenere i campi all'interno dei quali vivono 3.500 per un Roma. Problema che diciamo circoscritto a 3.000 persone. Assolutamente, le 3.000 persone che vivono nei villaggi attrezzati sono questi poi coloro che vivono all'interno dei cosiddetti ghetti monoetnici. Quindi vede, è un problema. No, sto pensando se gli stessi soldi fossero stati impiegati in altre categorie sociali, penso a chi ha una disabilità e qualcosa, sarebbe stato un gran vantaggio. Il problema è che la sicurezza costa molto, cioè mettere tutto nell'alveo della sicurezza ha un prezzo altissimo. Costa molto meno la prevenzione, l'inclusione sociale, l'integrazione, a prezzi molto minori, però pagano meno in termini elettorali. Allora, fermiamoci un attimo. Salvo Di Maggio, buongiorno. Salvo Di Maggio, lei è presidente della cooperativa Hermes che gestisce il campo attrezzato simbolo del piano nomadi a Roma, cioè il campo di Salone. Cosa da dire rispetto a quello che diceva Stassol? Voglio precisare che noi gestiamo interventi sociali. Gli interventi sociali hanno un importo molto molto basso. In realtà per gli interventi sociali vengono spesi meno di 80 centesimi al giorno per abitante quando invece per appunto gli aspetti di sicurezza, gli aspetti di manutentivi e gli aspetti di edificazione, insomma, di questi ghetti vengono spesi quelle cifre importanti di cui parlavate. Quindi c'è un'attività palazzinara nella costruzione dei campi nomadi che alla fine è una grossa speculazione, perché se lei mi dice che di tutti questi soldi, quanto è stato detto, mi sembra una cifra intorno ai 500 euro al mese costa ogni persona. Esatto. Se solo 80 centesimi al giorno sono per l'intervento sociale, il resto cos'è? In strutture e in attività di sorveglianza? E in vigilanza, esatto. Sì. Sono quegli interventi che non danno prospettive, come giustamente dicevano prima sia Giovanni Martello che Stasol, la prospettiva può essere data soltanto da interventi sensati che riguardino sia la scolarizzazione dei minori, sia la formazione degli adulti e dei giovani adulti rispetto all'inserimento lavorativo e la fuoriuscita dei campi. Quindi mi conferma, scusi, che costruire case per i Rom, vedo il titolo di un appunto che mi ha passato il collega, costa 10 volte meno di un campo attrezzato. Assolutamente. Assolutamente sì, ci sono delle esperienze fatte in altre città che hanno dato dei risultati molto positivi. E beh, poi dopo la gente scenderebbe in piazza, oh, date le case ai zingari, non le date alle famiglie degli italiani. È chiaro che da un punto di vista demagogico si gestisce meno facilmente questa questione, costruire delle case e metterci i Rom. Guardi, per quanto ci riguarda, noi pensiamo che gli interventi vadano realizzati per tutti i cittadini. Gli interventi che noi facciamo, per esempio di inserimento lavorativo, riguardano i cittadini di Roma, ma riguardano anche gli altri cittadini. Ma nessun cittadino costa tanto alla cosa pubblica. Assolutamente. Quindi, in effetti, c'è qualcosa che non funziona. Melog, la realtà condivisa. Sintetizzo subito con un sms che mi è arrivato il dubbio che è ancora rimasto nel nostro ascoltatore. Svediamo di chiarirlo, così almeno avremo raggiunto un primo risultato in questa trasmissione. Cioè, siete pazzi? Cosa stai dicendo? Chiudi i campi, gli regali l'appartamento. Dove vivete? Nel paese del Bengodi, Diego. Allora, Giovanni Augello, di redattore sociale, vediamo di sintetizzare tre parole quello che abbiamo detto finora. Mi sembra di aver capito, correggimi, che in realtà i campi nomadi attrezzati costano 10 volte di più di quanto costerebbe dargli una casa, si risolverebbe il problema. Diciamo che costa l'impianto securitario, cioè tutto quello che c'è intorno, non sostanzialmente gli interventi sociali che, come abbiamo sentito da Di Maggio, il presidente di Hermes, sono minimi, ma ci sono degli esempi a Messina. Io ho trovato degli esempi a Messina e a Padova, giusto per prendere appunto due esempi eclatanti, dove è stato consentito a delle famiglie, a delle comunità rom, di autocostruirsi un'abitazione, a Messina di rimettere a nuovo delle strutture abbandonate. Ci sono case di vecchie stazioni, comunque strutture anche appartenenti allo Stato abbandonate. A Messina è stata rimessa a nuovo una struttura con soli 150.000 euro. In un anno sono stati realizzati 10 appartamenti con il loro lavoro, senza spendere una lira, diciamo, in più, perché i Rom stessi hanno dato una mano. A Padova sono state realizzate delle abitazioni con una spesa complessiva di 750.000 euro, qui un po' più sono state realizzate ex novo. Quindi, facendo un po' di conti, alla fine costruire, dare la possibilità a Rom, ma anche non solo a Rom, a persone che vivono il disagio abitativo, di trovare una soluzione di questo tipo è molto più conveniente, è molto più... In questi termini ne parlo, non vorrei essere frainteso per il solito che vuol fare il buono, darsi atteggiamenti, dire io sono comprensivo in fondo, perché non ho il problema sotto casa. Sentiamo qualche ascoltatore. Michele. Sì, pronto? Da dove chiama innanzitutto? Io chiamo da Bari. A sentire il signore, non ricordo il nome, però mi sembra quello che dice è l'ago in un pagliaio, perché è l'opposto di quello che dice lui. Noi siamo invasi, ci sono dei campi rom attrezzati che sinceramente per me costeranno 4 soldi, perché noi, più che dare l'acqua o dare l'energia elettrica o assistenza ai minori che vadano a scuola, per il resto sono tutti abusivi. Vivono nei quartieri. Se sono attrezzati, sono legali. Quelli sì, io parlo e dicevo l'uno su cinque, il contrario di quello vicino, uno su cinque. Gli altri quattro sono tutti abusivi, vogliono vivere così, accattonaggio, i minori all'accattonaggio, riciclano tutto il rame nei cassonetti, tutta quella roba che qui c'è la raccolta differenziata, viene svuotata letteralmente sia quelli delle plastiche, dei ferri, di tutto. C'hanno le cassettine dietro le bici. Se sì, le ma portano... anche a Roma, ormai Roma sì, ma ogni cassonetto è presidiato. Raccontavo la percentuale, dopodiché pure l'abbigliamento che viene depositato per le case, per diciamo per la raccolta dei vestiti, le svuotano letteralmente. Se voi andate nei campi loro, quelli abusivi, al di là dei muri dove abitano fatte con roba di legno. Sì, vabbè, lei sta descrivendo una situazione che conosciamo bene, io non escludo che esista questo. Però la percentuale per me è al contrario, noi siamo invasi. Quartieri, io vivo in un quartiere abbastanza, un buon quartiere, però nella limitrofa periferia e invece ci sono almeno campi, 7-8 campi abusivi. Lei sta dando una situazione che conosciamo, è così, in effetti nei posti dove insiste più questa presenza in maniera disordinata c'è un problema forte, viverci non è certo piacevole, questo gliene do atto. Marilde, anzi. Buongiorno. Buongiorno. Senta, la mia esperienza personale, io nei confronti di Rom, Sinti, eccetera, eccetera, avevo direi un atteggiamento totalmente, insomma, tranquillo. Non vada al punto, però sì. Allora, sono stata salita ben 3 volte personalmente e ne dai Rom. Una volta, mentre scendevo... sì, ma sintetizzi, signora, non descrivo ogni sci... È stata assalita e ha cambiato idea. Ne ho viste no, io decine... Idea, nel senso che sono stata anche derubata. Beh, certo, la salgono mica per farle una carezza, portarle via la borsetta, no, chiaro. No, scusi, allora, uno, mi permetta, uno ha un atteggiamento molto così amichevole. Stavo partendo per Malpensa... Sì, guardi, la interrompo perché la fa troppo lunga. Ho capito, è stata borseggiata. Io vedo... un giorno sì, un giorno no, ragazzini rom che strappano le borsette, gli zainetti ai turisti, lo so, fa parte della realtà, mica dico nascondo questo lato della realtà. Carlo Stasolla, rispetto a quello che dicono gli ascoltatori, che sennò sembra esiste comunque questo problema, non vogliamo dare l'idea che siamo assolutori al 100% sull'attività illecita che svolgono appunto persone appartenenti a questo certo, gruppo di persone. Si è parlato molto in realtà di altri gruppi di Rom che sono quelli di più recente immigrazione e soprattutto quelli che vengono dalla Romania e dalla Bulgaria. Quelli dei cassonetti, per farci esattamente, capire. Esattamente, quelli che sono persone tutte quante che nel loro paese per secoli hanno vissuto, ricordiamo, nelle case dopo la crisi, grave crisi economica. Quelli sono cittadini migrati. Europei a tutti gli effetti. A tutti gli effetti e diciamo lo scenario descritto... E hanno pieno diritto di stare nel nostro territorio, se vogliono. Certo, lo scenario descritto è assolutamente realistico e mi ricordava proprio le scene degli immigrati italiani nella Germania che vivevano nelle baracche e descritti come persone puzzolenti che lemosinavano e che compivano atti criminali. Diciamo, quindi sono fenomeni sociali spiegati che vanno oltre, ben oltre quello che è un discorso culturale, per cui la cultura Rom è questo. No, è la cultura del margine, è la cultura del ghetto che porta a questo e che gli amministratori locali hanno il dovere di rimuovere e di trovare soluzioni civili e corrette per una integrazione che comunque ci deve essere e deve passare per questa strada. Allora, Stasolla, visto che stiamo arrivando alla conclusione, vorrei da lei, che è quello che ha più dati, quella che sarebbe secondo lei, non dico la soluzione, che non è detto che tutti i problemi abbiano una soluzione, ma un passo avanti, che non sia demagogico, che non sia il passo che tutti ci dicono, ah, volete nascondere una realtà, che non sia altrettanto scelleratamente usato in maniera strumentale. Lei cosa suggerirebbe? Sì, una riconversione di tutto il denaro che viene speso in Italia, negli ultimi 2 anni in tutta Italia sono stati 50 milioni di euro, una riconversione del denaro speso per la gestione e la realizzazione di nuovi campi verso soluzioni e verso politiche non differenziali. Se è vero come è vero che sistemare in una casa costa 10 volte meno, allora facendo i conti della serva si potrebbero dare 9 case a cittadini non rom e una non rom con gli stessi soldi. Quindi praticare politiche non differenziali, cioè esclusivamente rivolte ai rom, superare in maniera assoluta e definitiva quella che è la logica dei mega campi monoetnici. Grazie ai nostri ospiti, siamo arrivati alla sigla, però mi sembra che un passo avanti è stato fatto, perlomeno nella comprensione di ciò che viene detto in maniera demagogica rispetto al fenomeno rom. A domani.